Sura 112. Al-Ikhlas. Il puro monoteismo. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di. Egli Allah è unico. Allah è l'assoluto. Non ha generato, non è stato generato. E nessuno è uguale a lui.